che ho viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Come spesso accade per le carni degli esseri umani che vengono sottoposte a un processo ormai comunemente condiviso, anzi piacevolmente apprezzato, di imbalsamazione, di mummificazione, di conservazione. Beh, nella stessa maniera noi cerchiamo per quanto possibile di imbalsamare, di conservare la nostra anima. Uno dei sistemi di più rapida ed efficace imbalsamazione della nostra anima è quella della conservazione dei nostri ricordi. Quando noi riusciamo a strappare all'oblio qualcosa della nostra vita, siamo convinti che quel qualcosa che ha appartenuto alla nostra esperienza emotiva e quindi assomiglia molto a questo concetto che viene cambiato, muta nella percezione attraverso la storia, attraverso i condizionamenti religiosi, attraverso le forze che ispirano un determinato periodo, che è quello dell'anima. Oggi sono convinto che per noi l'anima sia il luogo dove restano conservati i nostri ricordi, luogo della non dimenticanza, il luogo dove l'oblio non esiste. Quella è la nostra anima. Noi tutti pensiamo e immaginiamo, quando non avremo più la coscienza della nostra definizione umana, da qualche parte esisteranno i nostri ricordi. Noi saremo i nostri ricordi. Il nostro ricordo è la nostra anima. Beh, come facciamo oggi a imbalsamare i nostri ricordi? Beh, abbiamo dei perfetti oggetti, degli strumenti raffinatissimi di imbalsamazione, oggetti individuali, dei trasformatori, dei reliquiari, in cui ogni nostro ricordo diventa qualcosa che può essere strappato alla consunzione del tempo. Ma uno è il nostro cellulare che abbiamo in tasca, che ha ormai nella maggior parte dei casi una telecamera, qualcosa che è possibile di attraverso cui è possibile trasformare ogni attimo della nostra esistenza in un attimo condivisibile con altri. Noi guardiamo una cosa, un oggetto, una situazione, un paesaggio, una vicenda che accade sotto i nostri occhi e ne siamo emotivamente colpiti, giudichiamo qualcosa che appartiene alla nostra esperienza, segnerà anche se minimamente la nostra esperienza, quindi lo filmiamo. Il primo istinto è filmare, non è immagazzinare, portare in memoria, collazionare, confrontare con altri pensieri. Filmare, immagazzinare, mettere nella periferica della nostra memoria organica. Vuoi videotelefonino, vuoi macchina cellulare, macchina digitale, vuoi piccola telecamera, ogni oggetto che permette di fissare una memoria, di conservarla, di metterla nel nostro reliquiario, comunque è benvenuto, perché è ciò che ci dà la speranza di avere un'anima. Noi ci siamo spesse volte soffermati sull'idea che oggi esistono dei vari strumenti di mantenimento della memoria anche del nostro tempo, che l'anima del mondo è quella che non appartiene soltanto a noi, a nostra esperienza, ma l'esperienza collettiva, che altrimenti andrebbe perduta, andrebbe corrotta. Come si manifesta, come si conserva l'anima del mondo? Riguardo alle civiltà del passato sono le vestigie, i grandi monumenti, poi le tavole cuneiformi, le scritte da decifrare, i monumenti funebri e le opere d'arte, poi andando avanti nel tempo, la letteratura, la carta scritta, i quadri, le statue, i ricordi orali che in qualche maniera cominciano ad essere appoggiati in alcuni supporti appartenenti alle scoperte tecnologiche, i cilindri cerati, i dischi di vinile, i primi hard disk fisici, gli hard disk più selezionati, i vari supporti digitali cui ogni giorno abbiamo nuove possibilità di conservazione di quantità sempre più grosse di memoria. Beh, tutto questo racconterà la nostra contemporaneità, soprattutto ciò che viene messo attraverso la grande opportunità che hanno gli esseri umani da quando esiste la rete, da quando la rete è una realtà condivisa, non è più un luogo elitario, è quello di mettere in rete dei brandelli delle memorie individuali perché cominciano ad appartenere alla grande memoria collettiva che è l'anima del mondo. La guerra, adesso forse vi scandalizzo, perché malgrado la paura, il freddo e la fame, io in quel periodo mi sono divertita. Perché erano sfollati qua i miei zii, era venuto un mio cugino che per me era un fratello e ci siamo divertiti, Passavamo per esempio un pomeriggio intero giù nel crostolo a prendere i pesciolini così, sa? i pesi sotto i sassi con le mani, e quella sera lì facevamo una cena proprio di quelle, ed eravamo all'eterna ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti, insomma. Meno male che mia madre curava molto l'orto, e allora andavamo, toglievamo una carota, una lavatina, poi insomma in campagna un frutto, delle noci, qualche cosa di commestibile riuscivamo sempre a trovare. Una signora racconta le memorie della guerra. Quando parlo di guerra devo specificare, per le generazioni che si sono succedute alla mia, la guerra è qualcosa di indefinito. Quale guerra? Per noi la guerra è quella che avevano fatto i nostri genitori. Noi ragazzi degli anni 50 consideriamo il racconto di guerra una delle tracce essenziali nel nostro sistema di ammaestramento alle vicende della vita, per farci capire che viviamo in un momento fortunato. La guerra è un'esperienza ineffabile, intraducibile, è irraccontabile attraverso la fiction, attraverso la letteratura. È molto più impregnante sentirsene parlare delle persone che l'hanno vissuta. Come avete sentito, questa signora che racconta la guerra la racconta ancora attraverso circostanze inedite, circostanze che non racconterà mai nessun romanziere, mai nessun romanzo storico, mai nessuna ricostruzione di film. Sarà un'altra guerra, sarà un'altra storia. Per avere tracce reali e concrete dell'anima di chi ha vissuto quel periodo occorre una testimonianza diretta, occorre essere contaminati la propria voce. Questo qualcuno lo sta facendo, in maniera molto giustamente affrettata, perché noi sappiamo che ogni istante della nostra vita ormai già appartiene alla nostra anima, anzi abbiamo una sorta di ombra digitale che ormai ci sovrasta. Tutto ciò che io dico viene comunque immagazzinato in un grande hard disk di una grande azienda che fa la radio, però si trasforma in tanti MP3 che attraverso il podcast tante persone scaricano nei loro riproduttori, comunque ce l'hanno nelle loro memorie individuali. Quindi esiste una contaminazione estrema di ciò che dico. Delle cassette, le trasmissioni che facevo anche soltanto 15 anni fa, esiste soltanto uno scatolone che tengo io nella cantina della mia seconda casa terremotata, perché probabilmente la stessa azienda in cui lavoravo l'ha abbandonata da qualche parte. Non c'era ancora l'idea di dover conservare attraverso una memoria digitale ciò che altrimenti non avremmo mai più possibilità di sentire dalla viva voce dei testimoni. Quando ero da solo giocavo con mucche di legno, così mi facevo le spalle, facevo delle strade, facevo delle cose così. E se no, andavo giù, quando andavo a scuola, allora lì giocavo finché vedevo arrivare notte, e poi via di corsa, perché poi mi prendeva poi la FIFA a venire su. Allora, era così. E poi una volta c'erano tanti bocce, ma ci sono anche adesso tanti che vanno a scuola, però erano tutti del paese i boccia, sai, si giocava lì. Queste testimonianze che vi sto facendo ascoltare appartengono all'intenso accanimento di alcuni ragazzi, alcune persone che hanno deciso che comunque queste voci non dovranno scomparire. Non sono le grandi voci della storia, non sono le voci dei personaggi celebri, ma la voce dei muti e sconosciuti testimoni della storia contemporanea. Se non ci fosse qualcuno che con un atto di generosa volontà decide di metterli in una banca della memoria, ma nessuno se ne ricorderebbe. Avremmo la storia raccontata soltanto dagli storici, soltanto dai personaggi eccelsi. Beh, questa è l'operazione che fanno i fondatori del sito Memoro, la banca della memoria, che non è soltanto un sito che si trova appunto in rete, ma ormai è un progetto vero e proprio. Parlai con loro qualche tempo fa, so che la loro volontà di lasciare tracce di memoria apparentemente futili, apparentemente non fondamentali nel racconto della storia, sta avendo dei frutti concreti. Ho al telefono Valentina Vaglio. Valentina, buongiorno. Buongiorno. Noi ci eravamo sentiti, mi sembra, qualche tempo fa, perché ho rimasto molto colpito da questa iniziativa, che persone volontariamente andassero in giro a raccogliere ancora delle trappole all'oblio da persone anziane che avevano qualcosa da raccontare che non apparteneva ai grandi filoni del racconto storico, ma vedo che voi siete andati avanti. Cos'è oggi Memoro? Allora, Memoro resta comunque quello di cui avevamo già parlato qualche mese fa, ovvero questa sito, questo grosso archivio dove vengono raccolte queste testimonianze, come giustamente dicevi tu, di persone comuni che hanno solo voglia di raccontarci la loro esperienza. Quindi questo è sicuramente il progetto base ed è quello su cui quotidianamente noi andiamo avanti a lavorare, cercando di renderlo sempre più ricco e più completo. Qualche numero lo puoi dare? Quante testimonianze avete strappato alla dimenticanza? Certo, allora, ad oggi noi abbiamo intervistato quasi 500 persone per un totale di online 1500 video, il che significa che se ci fosse qualcuno che si mette davanti allo schermo e decide di guardarle tutte senza interrompersi mai, può stare davanti allo schermo per 4 giorni e 2 ore. Quindi avete fatto una sorta di educational fatto da voi. La storia siamo noi, lo potreste dire a tutti gli effetti, perché in effetti non andate a bazzicare, razzolare e rieditare cose ormai già viste, straviste, riviste, di grande spessore, di grande valore, ma avete creato dei documenti nuovi, cioè delle nuove fonti su cui un domani potrà anche essere rivista la storia. Ah sì, assolutamente, noi tutto il materiale, tutti i video che ci sono sul nostro sito sono nuovi, in parte sono stati registrati direttamente da noi, nel senso che siamo proprio noi armati nella nostra piccola telecamera a recarci da queste persone e appunto farci raccontare i loro ricordi, in parte sono invece testimonianze che ci vengono caricate direttamente dal sito e a farlo sono i nipoti, i figli di appunto di persone che hanno un qualcosa da raccontare. E allora magari un ragazzo di 20 anni che è finito magari anche per caso sul nostro sito ascolta qualche racconto e poi pensa: anche mio nonno ha qualcosa da dire, e allora si mette lì col suo nonno e con, appunto, come dicevi prima, con un telefonino, con una macchina fotografica o se possibile con una telecamera lo riprende. No, questo mi fa piacere, sai perché? Mi fa piacere perché cominciamo a demolire questo terrificante luogo comune nei confronti, diciamo, degli osservatori del fenomeno rete, che poi oggi non trovo sia più un fenomeno, ma una realtà che condividiamo tutti. Ci sono gli entusiasti, dicono: ah, la rete è una cosa meravigliosa che può far fare cose fantastiche, poi in realtà è l'autocelebrazione di coloro che ne rappresentano la memoria storica, e gli altri che dicono è il luogo in cui, non so, i bulli mettono i video delle loro scelleratezze, in cui la gente fa delle cose terrificanti e le mette in rete. Voi avete trovato un settore di condivisibile valore e possibilità di fruizione, che è quello di andare a rubare le memorie ai nonni, che mi sembra una cosa fantastica. Si dà vita ai nonni, anzi si crea la vera trappola per la morte dei nostri nonni e si crea un'operazione importante. Sì, esatto, poi la cosa di cui noi siamo molto fieri è che a volte quando tu hai un nonno in casa che magari, è vero, tende a raccontare spesso le stesse cose che tu conosci già e quindi sì, alla fine le stesse cose ascolti per chi vive con lui, per gli altri sono, esatto, cose nuove. Esatto, e poi perché magari non l'ascolti più, magari ascoltando qualche altra testimonianza di persone che non conosci riesci a percepire quanto valore e quanta importanza invece abbiano i ricordi di tuo nonno, e allora a quel punto lì appunto guadagna valore sia il suo ricordo sia la persona stessa, e forse è una forma anche di riavvicinamento a queste persone. Quindi tu avete creato, diciamo, voi una rete che permette di far caricare autonomamente i video una volta dato, diciamo, lo standard e la maniera in cui va posta probabilmente l'interrogatorio del nonno per avere una sorta di omogeneità, e voi stessi andate alla ricerca. Ma quando andate alla ricerca, che filone seguite? Come vi muovete? Allora, in realtà l'unico criterio che noi abbiamo è quello dell'età, ovvero noi andiamo a intervistare persone nate prima del 1940. Oltre questo non esistono criteri, nel senso che noi siamo partiti con questo progetto convinti che qualsiasi tipo di ricordo fosse importante. E poi bisogna considerare che molto spesso noi le persone che intervistiamo non le conosciamo, quindi non sappiamo quali fatti, quali episodi abbiano magari più segnato il loro passato. Quindi noi iniziamo sempre l'intervista con un'unica domanda: ci racconta qualcosa del suo passato? A lui decidere qual è l'argomento che a piacere venga registrato e venga mantenuto e trasmesso alle generazioni. Quindi naturalmente ognuno di loro avrà una sua percezione della epica da sua epica individuale, quindi comincerà a raccontare gli episodi secondo lui sono stati più significativi. E quindi la guerra, racconto la guerra, guarda, Potrebbe sembrare una banalità a chi ascolta, ma in realtà è ancora un periodo estremamente controverso, in cui le letture ideologiche hanno prevalso su ogni possibilità di percezione reale del clima che si viveva in quegli anni. Quello che si legge nei libri è sempre comunque molto diverso da quello che la mia generazione sentì raccontare in casa. Quindi, secondo me, non so se ne ha la consapevolezza, state mettendo a disposizione un patrimonio molto importante a chi vuole con serenità di giudizio scrivere la storia. Certo, guarda, la verità è che il tema della guerra è sicuramente nei ricordi il più frequente. Infatti lo sto vedendo, non so, Soldato nella Repubblica di Salò, Lo Strutto, il mio nonno e l'armistizio, La vita da sfollati, il regalo di vetro a Togliatti, Alimentazione in Russia. Vedo che hanno a brandelli, ma si ricostruiscono tutte le fasi più controverse dei primi anni della guerra e del dopoguerra. Questo sicuramente in parte dovuto al fatto che è la grossa differenza che le persone che hanno vissuto la guerra sentono di avere nei confronti delle generazioni che non l'hanno vissuta, perché comunque quello è sicuramente un elemento che ha segnato le loro vite e che noi, che abbiamo appunto avuto la fortuna di non aver mai vissuto un periodo di guerra, non conosciamo e non potremo mai conoscere. Quindi loro ritengono che sia giusto che noi scopriamo che cosa ha significato vivere in guerra. Questo è sicuramente una delle motivazioni. Poi è ovvio che i ricordi, normalmente nei ricordi rimangono sempre le emozioni più forti, quindi tu considera che noi parliamo di persone che quando c'era la guerra avevano dai 5 anni ai 20-25 anni, ed effettivamente vivere un periodo del genere è un qualcosa che rimane e che difficilmente dimentichi. Sì, perché l'ultima generazione che la guerra l'ha veramente fatta comincia a essere ormai un po' oltre la possibilità di raccontarla, o naturalmente ce ne sono rimasti veramente veramente pochi. I scudei e i ramaiole fai asit mai ragazzole. E poi c'è un'altra che dice: o come balla ben chi du frateie anzone si cugine né frateie, o come balla ben la mi signora ai don calcinte il culla va clavola. La irritualità delle nonne quando raccontavano le filastrocche, che erano totalmente spudorate, contraddice quelli che magari sono dei luoghi comuni sul rigore dell'educazione delle generazioni passate. La nonna era l'elemento di grande trasgressione nella famiglia, era la persona ormai rilassata, ormai fuori dal dovere rappresentare comunque un'autorità, o colei che si era sempre difesa con le unghie, con i denti, dei brandelli di autorità in delle famiglie in cui il nonno era l'unico veramente autoritario, e viene rivelato improvvisamente, come se fosse una scoperta, in questa nonna che racconta la filastrocca. Dei ragazzi di Memoro ho al telefono Lorenzo Fenoglio. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno. Vorrei capire anche qualcosa sull'iniziativa che permette che poi, una volta, questi nonni che magari hanno difficoltà, non sanno nemmeno bene, non capiscono cosa sia la rete, possono ritrovarsi improvvisamente a far parte della storia. Voi avete fatto poi un CD e un libro di questa iniziativa. Sì, subito dopo la partenza del progetto abbiamo deciso di fare un tour per tutta l'Italia per riuscire a raccogliere quelle che erano le testimonianze, non soltanto del Piemonte, perché noi partiamo di qua, ma volevamo riuscire a completare il nostro archivio con tutte le... Quindi ha un respiro nazionale, comincia a avere Memoro. Ma anche internazionale, poi dopo ti posso spiegare cos'è Memoro a livello internazionale. Che parte da voi comunque? Sì, lo siete inventato voi Memoro? L'abbiamo inventato noi e lo stiamo gestendo noi anche a livello internazionale, quindi lo stiamo portando avanti in tutti gli stati con l'aiuto di persone sul posto. E non ci aveva pensato nessuno a fare una banca della memoria cominciando a intervistare i vecchietti? No, ecco, quello che a noi ha stupito molto è che l'idea, che risulta essere assolutamente banale, nel senso non c'è niente di particolare nell'intervistare le persone anziane, non fosse mai stata messa su internet. Infatti, dopo che l'idea ci è venuta, siamo andati subito a controllare se ci fosse qualche cosa di simile, per evitare di andare... Senti, Lorenzo, ci sentiamo tra qualche istante, poi continuiamo a capire come si chiude il cerchio, come coloro che hanno regalato qualcosa alla loro anima poi possono riusufruire del grande privilegio e piacere di far parte di una storia. Melog 2.0. Mi piacerebbe parlarci con questa ragazza. Dici, se tu vuoi ci faccio parlare io. A me quando mi venne a dire, ma che ti sei scemito? Perché poi le cose erano più ristrette, prima andemmo come mo, più liberi. Insomma, girò, mi ci fece parlare. E questo cominciò piano piano a... Mi ti ha messo una mattina, mi volle fermare di sotto alla seconda strada, la vecchia posta, non so, non il centro, un'altra strada di sotto. Io ero indecisa perché veramente pensavo più di sta Giulianello, così, no? E invece quando lo seppe un cugino mio, mi chiamò, mi disse, dice, come avevi dato? Dice, non tu te... Ah, dice, ho saputo che tu hai preso un sergente maggiore là, dice, guarda che tu... Non te lo devi prendere, dice, è innamorato mazzo anni che te l'ha preso. Ma dico tu che con me, che ne sai, gli hai mettete lo schiaffo. Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky tacky. No, un colpo al cuore, non dovete farmelo. Melvina Reynolds, Little Box, la vecchia canzone. Tanti anni sono, anch'io appartiene alla mia memoria questa piccola canzone delle tante casette che camminava lungo la strada, Melvina Reynolds, una signora degli anni 60, aveva già 60 anni, dice queste piccole casette tutte uguali, che tengono persone tutte uguali, fatte di nulla, fatte di cartone, sono allo stesso tempo il simbolo dell'affrancamento, del benessere, dell'omologazione, ma anche della schiavitù di queste persone, che avranno figli tutti uguali, andranno in tutte le stesse università, diventeranno tutti cialtronamente uguali e rimarranno tutti incasellati e colorati come le loro piccole casette. Ecco, vedete, ho avuto inconsapevolmente un brandello che appartiene alla mia memoria. Ascoltarlo mi ha dato un palpito, anche se è una trasmissione che facevo soltanto 2 o 3 anni fa. Però risentire Melvina Reynolds assieme appunto alla signora che racconta le vicende del corteggiamento, probabilmente negli anni 40, è qualcosa che improvvisamente ridà il senso della propria e dell'altrui storia. Questa testimonianza è presa dal sito memoro.org, che è l'iniziativa, come stavo dicendo in prima parte, di alcuni ragazzi torinesi che un giorno hanno deciso che la rete non era soltanto un luogo di celebrazione di chi la frequentasse, diventava un utile strumento per mantenere vivi brandelli dell'anima comune, fatta anche di testimonianze di persone comuni che raccontano momenti e fasi della storia che altrimenti avrebbero possibilità di essere espressi soltanto attraverso le letture ufficiali. Ho al telefono in questo momento Libero Traversa. Libero Traversa, buongiorno. Buongiorno. Lei ha fatto la guerra, è un ex partigiano, fa qualcosa di simile però in maniera più analogica, più organica rispetto a quello che fanno i ragazzi di Memoro. Lei va in giro scuola per scuola e racconta gli episodi della guerra a coloro che ne hanno testimonianza solo attraverso i libri. Sì, è vero. Come... è interessante ricordare, cioè io vado nelle scuole e parlo spesso a bambini delle elementari, delle medie inferiori e anche a ragazzi delle medie superiori. Chiaramente il tipo di discorso che faccio io, ma anche degli ascoltatori, sono diversi secondo le varietà, per cui i ricordi, le cose che si sa, che le domande che vengono rivolte sono diverse, ovviamente a seconda. Poi mi viene di farle una domanda, signor Traversa. Questi ragazzi, alle scuole medie, ragazzi forse un po' meno delle elementari, qualcuno di loro dice, ma sì, qualcosa del genere l'ho sentita dire anche a casa mia, perché oggi un ragazzo di scuola media, a meno che abbia un nonno particolarmente longevo e non rincoglionito, difficilmente sente di prima fonte raccontare gli episodi della guerra. Sì, è vero, a parte il fatto che anch'io ho figli, nipoti e bisnipoti, questo problema ce l'ho anche in casa, di quello di parlare, di raccontare, però se adesso diciamo i miei nipoti hanno la fortuna di avere ancora una fonte attiva come la mia, e quindi quando qualche volta racconto io delle cose mi fanno le domande. Nelle scuole la cosa è complicata, se non ci sono gli insegnanti che raccontano qualcosa, che sulla base di libri di storia abbastanza... insomma, piuttosto approssimativi, diciamola così. Sì, guardi, io ho confrontato un libro di storia di mio figlio del quarto ginnasio con lo stesso libro di storia che avevamo io e mia moglie, sembrano raccontare cose diverse, ma parlo della storia greca e del mondo classico, non voglio addurre letture di parte, è che semplicemente oggi nella necessità di trasformare linguaggi veloci, scorrevoli, comprensibili, decodificare, semplificare, non sembra più la storia che studiavamo noi. E quello che mi preoccupa, mi fa pensare che anche la storia contemporanea farà questa fine, diventerà sempre più povera, mancheranno sempre più quegli episodi, il colore, lo spessore, sarà sempre raccontata per slogan, diventerà la Wikipedia della storia. Ecco, lei ha mai pensato invece di, oltre che mantenere, spero che lo manterrà per il più tempo possibile, la possibilità di contatto diretto, di cominciare a digitalizzare la sua anima e quindi la sua memoria? Dunque, io ho scritto qualche cosa nel corso degli anni, ho scritto... Ma la voce è un'altra storia, eh? La voce è un'altra storia, sentirlo sì, raccontare. Sì, ho capito, però ho scritto e ho anche stampato, ho fatto stampare, c'è un mio libretto che si chiama Avevamo 15 anni, che ha un certo ascolto, è stato poi duplicato, ripubblicato, diffuso anche nelle scuole dove vado, eccetera, che racconta un po' tutta la situazione, i problemi della guerra e questo mi sembra una testimonianza. Poi ho scritto parecchie volte su altre parti, ne ho parlato, devo dire che di queste cose se ne parla e sono stato più volte intervistato. Qui a Milano hanno proiettato un filmato, non so se è giunta notizia, che si chiama Partiti per Bergamo, è un film dedicato ai 15 caduti fucilati di Piazzale Loreto. Ecco, lì si racconta proprio il clima del 1944, quando questi 15 sono fucilati di Piazzale Loreto. Tra le testimonianze di diverse persone che allora c'erano, c'è un ricordo, tra questi ci sono diversi figli dei fucilati che hanno fatto testimonianze, c'è anche la testimonianza del professor Umberto Veronesi, ma c'è anche la mia, ecco, tanto per dirne una, perché anch'io sono stato intervistato e appaio in questo, e così in parecchi altri documentari in cui ogni tanto arriva qualcuno che chiede testimonianza, mi chiede di testimoniare nel corso di filmati, documentari. Ecco, lei sta dicendo esattamente, quindi ne ha percezione, anche se non è proprio un nativo digitale, che comunque quello che rimarrà di lei di testimonianza vocale, orale, quando lei come tutti noi non potrà più farlo di prima persona, è quello che una macchina l'ha preso e ha permesso di mantenerlo in una memoria che andrà oltre la nostra memoria. Certo. No, ma lei non verrebbe mai in mente, non piacerebbe mettersi un giorno davanti a una telecamera e stare magari 3 giorni soltanto a raccontare, che quella sarebbe il vero furto alla dimenticanza di quello che lei va raccontando per le scuole, perché poi verba volant. Bravo, lei ha sollevato una cosa giusta, bisognerebbe che qualcuno me lo chiedesse, però devo dire che siccome io ho una figlia molto brava e intraprendente, in occasione dei miei 80 anni, un po' di mesi fa, ha voluto dedicarmi un filmato, un documentario che si chiama Libero, che è il mio nome, io mi chiamo Libero e quindi non è colpa mia. Libero è dedicato a il filo della memoria, e lei ha fatto questo documento che è stato proiettato già 2 o 3 volte in pubblico, diciamo, pure forse girerà ancora perché l'ha fatto lei, e ecco, lì io per esempio racconto molto. Questo filmato per esempio è una testimonianza alla memoria, è un contributo alla memoria. Capisco che quello che dice lei sarebbe ancora più interessante se qualche televisione, devo dire che deve essere stato forse nel tempo intervistato qualche volta da qualche televisione, ma può darsi. La ringrazio molto, signor Traversa. Volevo sentire adesso, allora, qualcuno dei ragazzi di Memoro, ho voluto proprio spremere e provocare, cercare di suscitare nel testimone vivente, quindi nella memoria organica di un periodo storico, questa sua voglia e percezione che in realtà la digitalizzazione del suo pensiero sarebbe qualcosa che anche lui darebbe soddisfazione. Lorenzo Fenoglio, sei in linea ancora? Sì, ecco, Lorenzo Fenoglio, ha sentito, io ho chiesto a questo testimone della guerra, testimone della resistenza, se lui avesse avuto piacere o interesse a trasformarsi in un ricordo digitale. Mi sembra aver capito che in realtà la vostra idea funziona perfettamente. Lui sa che appartiene alla storia, apparterà alla storia che lo continuerà dopo di lui, ciò che gli ha preso la televisione, le volte che ha partecipato a un documentario, l'ha intervistato un personaggio. Ma oggi forse è il caso di cominciare a far entrare nell'idea di queste persone che non è sufficiente che la televisione, non basta sia un programma televisivo, un giornalista di grido, loro stessi possono essere i padroni della loro memoria digitale. Assolutamente sì, la nostra idea iniziale si basa proprio sul fatto che le testimonianze rimangano disponibili su un sito web e che siano sempre fruibili. La grossa differenza fra un sito web e la televisione è che in una televisione c'è un palinsesto che viene programmato e fatto e trasmesso. Su un sito web invece chiunque può sempre accedere al sito e riguardarsi quello che vuole anche per più di una volta. Ecco, quindi, dicevamo prima però, voi avete fatto un DVD di questa materiale fruibile rete che ha la sua fantastica ed estemporanea maniera di essere fruito. Quindi questo dovrebbe dare la percezione e lo stimolo ai superstiti, ai reduci delle memorie che non ci appartengono più come trasmissione diretta, di rivedersi e avere la consapevolezza che comunque da qualche parte loro continueranno a esistere. Assolutamente sì, abbiamo fatto questo progetto editoriale con Einaudi che si chiama Io mi ricordo, è un libro più DVD dove sono raccolti 30 dei nostri migliori video, che poi è sempre molto difficile definire quello che è un migliore video, perché nel caso della memoria non c'è una memoria migliore di un'altra, sono quelli che più ci hanno toccato la nostra esperienza e il nostro progetto. Oltre a questo c'è anche un libro allegato al DVD che invece riporta i racconti delle persone, i giovani, i nipoti, le persone che normalmente invece sono avvezze all'utilizzo di internet, hanno lasciato su carta quello che è il ricordo di un proprio nonno. Quindi abbiamo questa doppia visione all'interno del libro. Nel libro c'è una visione dal basso, quindi di ricordi che partono dai nipoti, e nel DVD invece su uno strumento nuovo i nonni che si raccontano attraverso il video. Ecco, come pensate di andare avanti? Quale sarà il passo successivo? Ma il passo successivo della Banca della Memoria è quello di estendere il nostro progetto non soltanto ai video ma anche agli audio, per poter accedere a un insieme di registrazioni già digitalizzate e già presenti e con più facilità di raccolta. Oltre a questo si svilupperà anche una parte relativa alle fotografie che verranno utilizzate come attributo a un racconto o a una persona, quindi non si potrà ricercare una fotografia sul sito, ma la fotografia sarà semplicemente un elemento descrittivo di un racconto, per dare ancora di più l'impressione e la sensazione di quello di cui si sta parlando. Melog 2.0. Allora, io mi sono sposata il 27 di ottobre nel 1949. Nel mio paese, Cori, provincia di Latina, è stato il primo matrimonio civile. Nel mio matrimonio c'era tanta di quella gente, perché era una novità ed era una cosa un po' strana, perché la Chiesa Cattolica allora contava parecchio. C'era tanta gente quanto un comizio, perciò il mio matrimonio destò un po' di scandalo. Anche nella provincia, pensa che lo seppero a Latina, delle signore lo seppero, fortunatamente erano di sinistra e hanno detto ha fatto bene a sposarsi al comune. Io sono una cattolica, anche credente, però non credo ai preti, che giustamente io, siccome ne ho viste tante di cose che non mi sono piaciute. Questa è una signora che, nata sicuramente prima del 1940, che racconta davanti a una telecamera per i ragazzi di Memoro.org, gli organizzatori, gli inventori torinesi della Banca della Memoria, quello che era un suo punto di vista di una ragazza totalmente fuori dalle convenzioni, con uno spirito libertario e libertino che la rendeva già rara ai suoi tempi, ma che cade oggi con una sorta di gioioso laicismo che sembra molto raro perlomeno nelle rappresentazioni esterne, non soltanto della sua generazione ma anche generazioni molto più giovanili. Vedete che quindi è molto articolata anche l'evoluzione del pensiero, il punto di vista nei confronti delle problematiche. Non potremmo cogliere queste sfumature, saremmo vittima del pregiudizio di altre persone o dei raccontatori di storia o della storia raccontata attraverso le riesumazioni della fiction, della documentaristica, del docudrama, che sono tutte meravigliose maniere, sono degli educational ottimi. L'altro giorno ho trovato le vecchie trasmissioni della Sette che hanno permesso a mio figlio di prendere coscienza piacevole con la storia di Sparta e Atene, che dal suo libro di storia non trova nessun elemento di glamour per poterla memorizzare. Ha visto i documentari internazionali, televisione, ha visto le costruzioni, forse, chissà, non è detto, ho molti dubbi, studierà più volentieri. Però al di là di quello, visto della storia recente, forse a noi preme avere, se possibile, o lasciare, se possibile, visto gli strumenti che abbiamo a disposizione, delle tracce maggiormente interpretabili, che diano un ventaglio più largo di interpretazioni, che permettano di trasferire il senso, il respiro che si avverte dalla modulazione, dal senso dell'emozione, dallo sguardo, dal gesticolare dei testimoni, che prima non era possibile trasmettere. Prima che esistessero dei metodi di riproduzione di così semplice realizzazione, così economici, individuali, la storia era fatta soltanto da coloro che anche in epoca in cui esisteva il cinema, la televisione, la riproduzione su un astro magnetico, a cui andavano a chiedere e fare domande soltanto gli storici, soltanto gli addetti, coloro che ufficialmente potevano fare il racconto della storia. In realtà Memoru.org sta capovolgendo in maniera, secondo me, per questo ne parlo con questo entusiasmo che è raro per me, sta capovolgendo quelle che sono le letture ormai ammuffite ufficiali della rete. La rete è questo grande, meraviglioso strumento di interconnessione, è il luogo in cui si celebra la democrazia, è il luogo in cui blogger dimostrano in realtà la superiorità rispetto al muffo antico e stantio, verissimo, giornalismo tradizionale. No, è il luogo che possono usare anche i vecchi, anche i nonni, che ogni essere umano ormai dotato di capacità di espressione può usare, come ha imparato a usare il telefono, la lavatrice, la lavapiatti, il phon, l'asciugacapelli e tutti gli altri marchingegni della tecnologia, che ci dimostra che noi possiamo essere umani, anzi molto più umani, anche grazie alla tecnologia. Abbiamo al telefono la signora Livia. Livia, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei cosa vuole raccontare? Sì, ricordavo un po' della guerra. Io sono nata nel 1940, non è che ricordi poi così tanto. Beh, sì, gli ultimi 5 anni, ricorderà sì, l'ultimo anno, probabilmente. Però ero piccolissima, ricordo solo che noi abitavamo in una stazione ferroviaria dove mio padre faceva il caposquadra e mia madre, chiamata guardia barriera, perché doveva sollevare le sbarre quando passavano i trenini, sa? A mano, cioè le sollevava a mano? A mano, sì, con la manovella. E questa è già una cosa che raramente capita di vedere. Oggi sono quasi tutti automatizzati i passaggi. Sì, appunto. Avevamo il telefono, anche se era quello con i pulsantini, sa dove... Tutte cose che io ricordo. Ricordo che passavano queste camionette di americani che ci davano le caramelle. Per noi era la cosa più bella, perché caramelle non se ne vedevano... Cioè, bomboloni, chiamati bomboloni. E come erano fatte? Ma erano involti in una carta, me le ricordo ancora, erano lunghi, specie di caramelle lunghe, e avvolti con una carta speciale, adesso non... E per noi era una novità. E però vede, lei ha già detto alcuni episodi che sembrano minimali, inutili, però nel grande racconto della storia sono delle caselle in più, dei piccoli frammenti che permettono comunque di ricostruire il grande passaggio della storia. Noi... Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Anche lei ha dei ricordi che cui piacerebbe lasciare nella nostra memoria digitale? In Italia ho moltissimi, perché ho 74 anni, quindi avevo 6-7 anni alla fine della guerra, e sono avvenuti diversi fatti, specie nella Bassa Bresciana, che regolarmente era ai margini dei fatti bellici, insomma. Allora, qual è che, comunque, la cosa che ricorda con più soddisfazione? È quello proprio del sale. Me l'ha ricordato lei veramente in una trasmissione 2 anni fa, perché accennava a questa carenza assoluta in certi paesi, in certe zone, di sale. Io ho detto, come fa il conduttore a... Beh, anch'io miei anni, non è che... Io dalla voce immaginavo che fosse molto giovane, sì. Ma l'avrà saputo da altri. Sì, comunque sì. Eravamo in 7 in famiglia. Cioè non è che ho visto la guerra, però diciamo l'ho lambita per una generazione. Comunque è stato un fatto che mi ha lasciato sconcertato, anche sulla inventiva che nel momento di bisogno nasce così distinto nell'uomo. Mio papà, con 7 figli, un giorno era preoccupato, è entrato a pranzo e diceva alla mamma: come facciamo a uccidere il maiale? Che non c'è sale. Uccidiamo il maiale, e se non uccidiamo il maiale, questi come fanno la No, senza sale in realtà non si conserva nulla, non si fa manco il prosciutto. Senza sale era impossibile conservare la carne. E cosa ha fatto? Il maiale cresceva e costava anche. Era ora di ammazzarlo. Una notte è sparito, ha preso la sua Day, la sua bicicletta che teneva come un gioiello, e è ritornato al mattino con un sacco enorme. E dove l'aveva fregato? Era partito da Barbariga, il paese della Bassa, ed è andato, lo seppi dopo, a Piacenza, sul Po. Si vede che lì era possibile qualche... Ma quindi andato, l'unico posto dove ancora poteva trovare del sale, ci è andato in bicicletta? Sì, era logico, col pericolo che c'era, perché c'erano i tedeschi, i partigiani da una e i fascisti da una parte, e dall'altra c'erano gli americani oltre il Po. Perciò nottetempo, con il suo faro della bicicletta, è arrivato a Piacenza e al mattino è tornato a casa. Ma questo è nulla quasi rispetto... Immagino la felicità del maiale quando l'ha visto arrivare col sale. Ha detto, lo so. La giornata si preannuncia problematica. Ma invece non è stato il sale di per sé, è stata la curiosa tecnica per guadagnare quei tanti soldi che avevo speso, almeno in parte, e che ha fatto? Ha preso il sale che era lurido, sporchissimo, io non so come si colga e si pulisca il sale, presumibilmente gliel'ha dato un sacco di quelli o di scarto. Era il sale da buttare, sì. Terza categoria, e lui l'ha portato a casa. L'ha lavato. E in un'ora e mezzo è riuscito a cogliere con le mani la parte più bella, l'ha messa in un sacco. Invece quella più sporca, normale, come aveva era riuscito ad avere, in un altro mezzo sacco, e li ha messi tutti e due fuori dall'uscio di casa. La gente che aveva bisogno, quanto noi, del sale, disposti anche a pagare nel limite del possibile quanto si richiedeva, è riuscito a vendere tutto il sale sporco e ha conservato parte di quello pulito per noi, per i nostri usi, e quindi lui è andato fuori quasi patto, cioè in pratica gli è costato il viaggio della fatica. Se uno dà la possibilità, se uno permette, apre le porte dello starghetto digitale a chi ha qualcosa da raccontare, è la consapevolezza che quello che racconta è una reliquia inesistente per chi vive la propria contemporaneità basandoli soltanto sui reperti ufficiali del passato. Si apre una cataratta che è molto difficile da chiudere, ma che io devo necessariamente e dolorosamente chiudere, perché è arrivato il momento della sigla. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111.